24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il voto del Parlamento slovacco, grazie al quale il Fondo Europeo Salva Stati può ora divenire operativo. Ieri è stata una giornata difficile per le borse europee, in particolare Milano, anche a causa dell'incertezza politica che grava sul governo Berlusconi. Intanto le proposte di ricapitalizzazione bancaria creano tensione nel vecchio continente. Oggi vi parleremo pure dell'ultimo scandalo che coinvolge Rupert Murdoch e di una sentenza sui voli aerei che fa molto discutere. Per chiudere, lo sport con i sorteggi dei playoff per Euro 2012. Il Parlamento slovacco ha approvato il rafforzamento del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, che ora diventa operativo. La Slovacchia è l'ultimo dei 17 paesi dell'Eurozona a ratificare l'ampliamento a 440 miliardi del fondo deciso nel vertice del 21 luglio. Martedì, in occasione di un primo voto, il Parlamento aveva bocciato il rafforzamento dell'IFSF. La Slovacchia dovrà ora contribuire con 7,7 miliardi di garanzie pubbliche. E ieri è stata purtroppo una giornata negativa sulle piazze finanziarie europee, la peggiore è Milano con un calo del 3,71%. A innescare le vendite sono state l'incertezza politica in attesa del voto di fiducia al governo, il conseguente aumento della tensione sui titoli di Stato e i timori su nuovi aumenti di capitale per le banche. Sentiamo. Giornata da dimenticare per il listino milanese che con un calo del 3,7% circa ha realizzato la peggiore performance in Europa. Parigi e Francoforte hanno perso oltre l'1% e Londra lo 0,7%. A innescare le vendite a Piazza Affari sono stati vari fattori. L'incertezza politica in attesa del voto di fiducia al governo, il conseguente aumento della tensione sul mercato dei titoli di Stato e i timori sull'esigenza di nuovi aumenti di capitale per le banche. Proprio i titoli degli istituti di credito hanno trascinato Milano al ribasso all'indomani della presentazione del piano europeo di ricapitalizzazione delle banche. I realizzi hanno colpito in particolare Unicredit, meno 12%, che secondo alcuni esperti sarebbe uno degli istituti europei più in deficit di capitale. Male anche il Banco Popolare, meno 9% circa, e Intesa San Paolo, meno 8%. Dopo una mattinata l'insegna degli acquisti è chiusa in negativo BPM, meno 2,8%, in attesa dell'assemblea per il rinnovo dei vertici il prossimo 22 ottobre, mentre è in corso la campagna elettorale dei vari candidati. Livia Zancanera da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Ore di attesa, dicevamo, in Italia in vista del voto di fiducia, pensate, il 51esimo di questa legislatura per il governo Berlusconi. Ieri il Premier, nel suo discorso al Parlamento, ha parlato anche di Europa. Il cuore, lo sappiamo, lo vediamo, del sistema bancario europeo è sotto l'attacco della speculazione. I mercati finanziari si comportano in modo volatile, minacciando la stabilità dell'euro, che è il pilastro della costruzione europea. Ma faremmo torto alla verità dei fatti se non si ricordasse che la moneta unica ha un vizio d'origine, in quanto non esiste ancora un'autorità europea che possa coordinare le politiche fiscali, che possa emettere bond. La crisi economica subirà una svolta positiva solo nel momento in cui l'Europa si dimostrerà capace di fare un passo avanti decisivo nell'unità politica, nel coordinamento delle politiche economiche, nel coordinamento delle politiche della difesa, nel coordinamento della politica estera. I paesi dell'area euro che hanno ricevuto il salvataggio internazionale e quelli particolarmente vulnerabili alle condizioni dei mercati devono essere pronti ad adottare eventuali misure aggiuntive, lo scrive la Banca Centrale Europea nel bollettino mensile. E secondo un alto funzionario europeo, i requisiti minimi di capitale Core Tier 1 per alcune banche europee saliranno al 9%. Mercoledì il presidente della Commissione, Giuseppe Barroso, ha presentato il proprio piano salvabanche. Piano contrastato dagli istituti di credito tedeschi, che hanno scritto al ministro delle finanze Wolfgang Schäuble per protestare. Non può essere nell'interesse della stabilizzazione del mercato finanziario far immaginare una presunta debolezza degli istituti di credito attraverso un rafforzamento arbitrario del capitale bancario, si legge nel testo. A proposito di banchieri, li ha sentiti Antonio Pollio Salimbieni, che ieri a Bruxelles ha intervistato il consigliere delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera. Ci vuole un piano molto determinato, molto integrato, molto basato su consenso largo, cioè un momento in cui bisogna lavorare insieme per creare occupazione, cioè non si parla mai abbastanza del problema numero uno, che è il numero dei disoccupati, degli inoccupati, dei sottoccupati. Ecco, questa è la priorità e ci si può lavorare insieme. L'Italia fortunatamente può basarsi su dei fondamentali forti. La sensazione in tutto il mondo di una situazione politica non solida, di un governo non sufficientemente impegnato a iniziative e riforme di lungo termine per la crescita, sicuramente non aiuta il nostro paese. Nuovo scandalo all'orizzonte per il magnate Rupert Murdoch, gonfiate le vendite del Wall Street Journal Europe. Questa volta la bordata parte dal Guardian. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano inglese, il Wall Street Journal, la perla di News Corp, avrebbe stretto degli accordi con società europee perché comprassero a prezzo di favore migliaia di copie del giornale in cambio di citazioni. Un modo per gonfiare i dati di vendita, aumentare le entrate pubblicitarie. La notizia sarebbe l'origine delle dimissioni presentate ieri da Andrew Langhoff. Stando ad alcuni documenti email interne, sarebbe lui l'ideatore del sistema che avrebbe sostenuto la tiratura della versione europea che viene distribuita ovviamente in Europa, in Africa e in Russia. Lo scorso anno Liz Hinton, considerato il braccio destro di Murdoch a New York, sarebbe venuto a conoscenza del meccanismo, ma avrebbe preferito non intervenire. Avviato nel 2008, il sistema sarebbe stato costruito in modo tale che alcune società che sponsorizzavano eventi e convegni comprassero copie del Wall Street Journal a un prezzo di favore, attivando un meccanismo che sarebbe arrivato ad assicurare alla testata una tiratura extra di 31.000 copie al giorno. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Dalla Corte di Giustizia Europea una sentenza che farà sicuramente discutere e anche giurisprudenza nei tanti contenziosi per la cancellazione delle tratte aeree. Il servizio. Il vostro volo è stato cancellato? Buone notizie. Insieme ai danni materiali ora potete chiedere anche quelli morali. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, che specifica, alla voce voli cancellati c'è anche l'eventualità in cui l'aereo parta ma per qualche ragione sia costretto a rientrare nello scalo di partenza. Non ha importanza se poi la compagnia aerea vi sistema in un volo successivo. Esattamente quanto è successo a 7 cittadini spagnoli nel 2008. Il loro volo, partito da Parigi per la Spagna, era decollato in orario ma poco dopo era rientrato all'aeroporto per un problema tecnico. Il giorno dopo erano stati imbarcati su altri voli, ma successivamente erano andati comunque dal giudice chiedendo, oltre al risarcimento per danno materiale, anche un indennizzo per quello morale. Il tribunale spagnolo, dal canto suo, si era rivolto alla Corte di Lussemburgo chiedendo chiarimenti. Oggi la sentenza. Primo, il volo non può essere considerato effettuato perché la programmazione iniziale del passeggero è stata abbandonata, non contano i voli successivi. Secondo, la nozione di risarcimento supplementare, rispetto cioè a quanto già previsto dalla normativa, consente al giudice nazionale di concedere a certe condizioni anche il danno morale. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuovo rafforzamento delle sanzioni europee contro la Siria. I 27 hanno deciso di imporre sanzioni a una banca commerciale che sostiene finanziariamente il regime di Assad, congelandole i beni. Gli spettacoli adesso, applauditissimo a Cannes, arriva finalmente nei cinema italiani This Must Be the Place. Sean Penn, diretto da Paolo Sorrentino, il regista al microfono di Marta Cagnola. È molto più importante di tante altre uscite. Il film per me ha un'appartenenza prevalentemente italiana. No, non cado nella trappola di dire, dato che ho fatto il film in America, è importante l'America. Adesso tocca ripartire per l'America e ricostruire una promozione per una cosa che non nominiamo, comincia con la O e finisce con la R. Mi sembra che si corra un po' troppo, cioè può essere pure che non ci sia nessuna campagna per gli Oscar. Vedremo, perché sono meccanismi a me sconosciuti e staremo a guardare con un sano atteggiamento di disincantata curiosità. Non si può fare altro. Chiedo il riconoscimento di un diritto, quello del calcio europeo, di non correre il rischio di diventare vittima, se non schiavo, delle scommesse online e del crimine organizzato. È il grido d'allarme lanciato dal presidente UEFA, Michel Platini, al Consiglio informale dei ministri europei dello sport a Cracovia. E ieri si sono svolti i sorteggi per i play-off di qualificazione a Euro 2012. Turchia contro Croazia, poi Estonia, Irlanda, Repubblica Ceca, Montenegro, Bosnia, Erzegovina, Portogallo. Sono questi i quattro match di spareggio necessari per completare il quadro delle 16 nazionali qualificate ad Euro 2012. Gli accoppiamenti sono usciti dal sorteggio effettuato dal segretario generale dell'UEFA Gianni Infantino e da Zibi Boniek, grande ex di Juventus e Roma e ora ambasciatore del torneo continentale. Il segretario UEFA Infantino ha approfittato per rassicurare sullo stato d'avanzamento dei lavori di preparazione del torneo in Polonia e soprattutto in Ucraina. Le gare di andata si giocheranno l'11 e il 12 novembre, l'Irlanda del Trap comincerà in trasferta, quelle di ritorno il 15 decisivi secondo il regolamento delle coppe europee, col gol in trasferta a valere doppio. Le quattro qualificate si aggiungeranno a Italia, Germania, Francia, Olanda, Spagna, Inghilterra, Russia, Grecia, Danimarca e Svezia, oltre a Polonia e Ucraina qualificate d'ufficio come paesi ospitanti. A Kiev il 2 dicembre poi i sorteggi dei quattro gironi della fase finale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.